ad amare, purché non sia ormai troppo matura. Svuotatela dai troppi pensieri, sbucciate la sua aria sicura. Lasciatela così qualche giorno, mentre voi gli preparate il contorno. Prendete il vostro luogo d'amore, riempitelo di fiori odorosi, lavate tutti i vostri ricordi, tenete molto basse le luci, bruciate qualche incenso cinese, mentre voi stappate un vino francese. Sapete, scartate le sue false difese, pepate un po' le vostre parole, dorate quanto basta lo sguardo, e quando tutto è così condito, mangiate